Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La Banca Centrale Europea porta, come i nostri GR vi hanno comunicato anche in tempo reale, i tassi di interesse europei al minimo storico, e lo stesso ha fatto anche la Banca d'Inghilterra, per inciso, quindi mossa attesa, ma forse anche non ultima nel taglio dei tassi di interesse. Nel giorno in cui, tra l'altro, il ministro Tremonti, sempre come ricordava i nostri GR, ammette che il 2009 sarà ancora più difficile del 2008, ebbene, e anche critica la Banca Centrale Europea per forse una decisione un po' così tardiva, ma soprattutto polemizza anche con Bruxelles per il fatto che i Tremonti bond possono essere messi troppo tardi. Ma al di là di questo, la cosa che più lascia perplessi, ormai non so più che aggettivi utilizzare, è la reazione dei mercati. Perché? Perché in questo momento Milano perde il 5,5%, quindi stiamo andando ancora indietro, non più 1997, fra un po' vedremo quando il MIBTEL perde il 5%, è 11.200 punti. E Parigi perde il 3,25%, Francoforte il 3,80%, Londra il 2,20%, quindi Milano si conferma, l'Italia si conferma la borsa più penalizzata in queste sedute. L'America è negativa di un bel po', meno 2,4%, Nasdaq meno 2,2%. Ora non so se ci sia ancora spazio e margine per un commento su questi mercati, o non ci si debba limitare a dire che finché la situazione è questa è anche quasi un artificio andare a cercare le spiegazioni, nel senso che sta di nuovo calando tutto in maniera indistinta, dagli assicurativi con fondiari assai meno 8,11, Mediolanum meno 8, Mediolanum fa più risparmio gestito, Generali meno 7,7, scende sotto gli 11 euro per azione Generali, Intesa meno 7,6 a 1,5 euro, ma scende anche Eni meno 6,80, per cui come se improvvisamente il petrolio fosse crollato a $10 al barile, o non si dovesse più utilizzare petrolio per riscaldamento e per l'autotrazione. Scende Bulgari meno 4,4, Telecom Italia meno 4,5, scende Fiat del 5. Insomma, si salva solo Snam Rete Gas più 1,7, Impregilo più 1,5, Terna più 0,4%. L'euro nel frattempo scende 1,25 sul dollaro. Questa potrebbe forse essere una buona notizia per chi esporta. Sulla sterlina britannica siamo a 88 pence. Nel giorno in cui, dicevamo, il ministro Tremonti riconosce e sottolinea che il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008, e poi avremo anche uno spazio per ricordare, insomma, come fino a qualche mese fa lo stesso governo, non tanto il ministro Tremonti ma altri esponenti, tendeva a dare più ai giornalisti o ai centri di studi di Confindustria la responsabilità di questa crisi, come se la crisi l'avessero amplificata i media. Adesso mi sembra che anche l'esecutivo ammetta a tutti i livelli che la crisi è seria, è grave, e nel 2009 andrà anche peggio che nel 2008. E questo per quello che riguarda il fronte italiano ed europeo. Poi c'è la vicenda General Motors. General Motors non si capisce, ma continua a mandare comunicati terrificanti sul destino di Opel. A questo punto non è in grado di garantire la continuità. Torneremo a parlare di General Motors. E poi c'è una vicenda tutta italiana come le quote latte, perché è passato il decreto del ministro Zaia al Senato, adesso andrà alla Camera. Cercheremo di capire nella seconda ora del programma il perché di una forte tensione che ha visto contrapporsi gli agricoltori. Lo dico senza nessuna giudizio di valore, ma gli agricoltori virtuosi, quelli che avevano pagato le multe per le quote, per lo sfornamento delle quote, ad agricoltori meno virtuosi. E gli agricoltori virtuosi, questa è un'accusa che muove soprattutto la Confagricoltura, vengono in questo modo penalizzati per essere stati corretti e onesti. La sto semplificando, avremo modo, se tutto funzionerà, di parlarne sia col ministro Zaia che con i vertici di Confagricoltura. 349-238-6666 per i vostri sms. È chiaro che partiremo dal taglio dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea, poi ascolteremo le dichiarazioni del Ministro Tremonti, della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ma anche del Presidente dell'ABI Faissola, qualche voce di alcuni imprenditori e uno spazio anche per i mutui, per capire come un taglio dei tassi di interesse di questo genere poi vada a ripercuotersi sui mutui per la casa. Rapidamente le altre notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. Intanto si è mosso anche l'Euribor, il tasso interbancario di riferimento è sceso all'1,76%. La Banca Centrale Europea, lo dicevamo, ha tagliato i tassi di interesse, scusatemi, all'1,5%, il minimo storico da quando esiste la Banca Centrale Europea, ossia dal 1999, mentre la Banca d'Inghilterra ha tagliato il costo del denaro al livello più basso da quando esiste, 1694, già aveva raggiunto questo record la volta scorsa, ma insomma il denaro in Inghilterra ormai costa niente, lo 0,5%, c'è chi dice che a questo punto, considerando anche l'inflazione, è vantaggioso prendere denaro in prestito invece che averlo in cassa, perché costa meno prenderlo in prestito che rispetto a quanto non si svaluti avendolo in portafoglio, vista l'inflazione. In Cina nessun nuovo incremento nel pacchetto di stimolo all'economia annunciato oggi dal primo ministro Wen Jiabao, quindi fa marcia indietro il governo di Pechino nel giorno in cui si apre l'Assemblea Nazionale del Popolo, smentendo quindi le ipotesi molto molto forti di nuove misure pari a altri 600 miliardi di dollari destinate soprattutto alle infrastrutture. E Wen Jiabao ha chiarito che l'obiettivo della Cina quanto a crescita economica, a PIL, è arrivare a una crescita mantenere la crescita dell'8%, una cifra inimmaginabile per noi, ma ricordo che secondo la vecchia dottrina comunista cinese, Deng Xiaoping in poi, un tasso di crescita sotto il 5% non garantirebbe in Cina l'ordine sociale. Vedo che arrivano molte domande già al 349-238-6666 sulla borsa. Allora, è chiaro che se nessuno compra, perché tutti chiedono, ma insomma chi compra se qualcuno vende? Allora, i titoli stanno calando così tanto perché se c'è poco interesse a comprare, lo dico in maniera un po' semplicistica, tu offri il titolo a 1,5€, nessuno, non trovi un compratore, lo offri a 1,4€, non trovi un compratore, lo offri a 1,2€ e via così finché non trovi qualcuno che a 1€ te lo compra. Ma ecco perché assistiamo a scivoloni adesso intorno al 8,3€, Unicredito va malissimo, anche Banco Popolare, insomma tutto di nuovo un copione già visto. Ci si chiede a questo punto fino a che livello dovranno scendere questi titoli, ne parleremo fra un attimo. Andiamo avanti con le notizie. In breve, le insolvenze sui mutui in America, eccoci da dove la crisi è partita, anche se lo abbiamo detto molte volte, questa crisi è stata solo innescata dai mutui americani a rischio, non certo lì c'è la colpa di tutto, però le insolvenze sui mutui sono al massimo in America dal 1972, e quindi altro che andare indietro al 97, qui ci siamo già giocati 37 anni tra vari dati, 72-73 come dati di riferimento. Insomma, la Mortgage Bankers Association ha fornito i dati, c'è il boom di pignoramenti negli Stati Uniti, saliti al 3,3% di tutti i mutui, cioè 3,3 mutui ogni 100 o 3, portano, o 33 mutui ogni 1000 per meglio dire, portano al pignoramento, è il massimo da sempre. Però le vendite di Walmart, il gigante americano della grande distribuzione, sono in aumento, più 5%, nettamente sopra ogni stima. Tant'è che Walmart non solo distribuirà il dividendo, ma aumenterà anche il valore del dividendo, $1.09 per azione. General Motors, dicevamo, di nuovo sull'orlo del fallimento, e qui si riapriranno le polemiche se serva o no aiutare i giganti dell'auto americana. Perché? Perché il colosso americano ha messo una seria ipoteca sul suo futuro, ha parlato oggi di dubbi sostanziali sulla capacità del gruppo di garantire la continuità, questo in una nota alla SEC, che è la Consob americana. e quindi ha messo nero su bianco la possibilità di avviare la procedura di bancarotta, quindi Chapter 11 come si chiama in America, in modo da essere protetta dai creditori. Quindi auguri poi a chi ha le obbligazioni General Motors o le azioni General Motors. E tra l'altro ha ridotto i compensi al numero uno, però questa cosa farà arrabbiare qualche ascoltatore. Il manager Rick Wagoner nel 2008 non guadagnerà più 14 milioni di dollari come nel 2007, ma, e questi sono dolori, solo 5 milioni e 400 mila dollari. Sono problemi e siamo tutti vicini a Rick Wagoner di fronte a questa difficoltà di aver dimezzato, anzi quasi ridotto a un terzo il suo stipendio. Tra l'altro questo di fronte a una società che nel 2008 ha perso 31 miliardi di dollari, la seconda peggior perdita della sua storia centenaria. E poi a Bruxelles si sta discutendo di proporre un vertice di paesi europei coinvolti nei siti di General Motors in Europa, in primo luogo la Opel, che è controllata da General Motors. Adesso però mandiamo, perché tutto il resto fa parte dei temi del programma, andiamo al primo tema, ossia politica monetaria. La Banca Centrale Europea, ormai vedo molti sms polemici, in qualche modo l'abbiamo stradetto e l'ha ammesso la stessa Banca Centrale Europea, ha fatto una cavolata a luglio dell'anno scorso a alzare i tassi di interesse. Non possiamo più chiedere a Trichet di cospargersi il capo di cenere, insomma. In qualche modo l'ha già fatto, ha ridotto oggi la BCE i tassi al minimo storico da quando esiste, ossia da 10 anni. Eh sì, li ha portati all'1,5% contro il precedente 2%, questo è il costo del denaro, vuol dire quanto rende il denaro e quindi quanto costa il denaro, secondo a cui uno lo presti o lo chiede in prestito, quanto rende, quanto costa come tasso ufficiale. Poi su quello le banche fanno i loro calcoli, e infatti l'Euribor si muove in base a questo, e lo spread, ossia la differenza tra quanto è l'Euribor e quindi il tasso di riferimento ufficiale e quanto poi chiedono le banche, è la differenza tra quanto costa alle banche in qualche modo e quanto costa a noi cittadini. Però mentre in Europa restano all'1,5% i tassi, in Gran Bretagna scendono allo 0,5%, e in America il denaro costa zero, e quindi con l'inflazione vuol dire che costa meno averlo in prestito che non averlo in tasca, e infatti il tasso di interesse sui Fed Funds è tra lo 0 e lo 0,25%. Non deve essere stato facile però raggiungere questa decisione in Europa e quindi a Francoforte, perché Trichet oggi, il numero uno, ha detto: sui tassi abbiamo raggiunto un consenso dopo un ampio dibattito, stiamo studiando misure non convenzionali e non escludo un'ulteriore discesa dei tassi. Così Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea. Abbiamo avuto, come sempre, un dibattito molto, molto approfondito sulla situazione attuale. Una discussione che si è conclusa con il raggiungimento di un consenso. Noi ci troviamo già in un momento in cui vengono applicate misure non convenzionali. Possiamo senza dubbio sostenere questo. Riferendomi alle misure di politica monetaria, che chiamerei di allentamento quantitativo, posso affermare che stiamo discutendo e studiando nuove ed ulteriori misure straordinarie. Non siamo in alcun modo prevenuti su nessuna misura non convenzionale, non escludiamo nulla. Circa un livello di tassi allo 0%, vediamo tutta una serie di inconvenienti, mentre sul livello attuale dei tassi posso dire che non abbiamo deciso a priori che quello di oggi sia il più basso che possiamo permetterci. Allora, molti di voi dicono: beh, qui siamo anche di fronte, rischiamo una bolla per tassi troppo bassi, denaro troppo poco caro, e poi alcuni scrivono c'è anche il rischio di una bolla su queste decine di miliardi di obbligazioni, titoli di Stato governativi che i vari paesi in Europa, anche in America, stanno emettendo. Avete ragione, non è che ci sono molte altre alternative in questo momento. La situazione è molto molto delicata. Comunque, la Banca Centrale Europea ha anche diffuso le stime sulla crescita nel 2009. Allegria tra il meno 3,2% e il meno 2,2%. Solo 3 mesi fa la Banca Centrale Europea diceva che nel 2009 saremmo calati tra un meno 1 e uno 0. Mo abbiamo già pigliato 2 punti quasi 3 punti in più rispetto alle previsioni di 3 mesi fa, quasi 1 punto al mese, e l'anno ne ha 12. L'inflazione nell'area sempre dell'Unione Europea è, secondo la Banca Centrale Europea, tendenzialmente negativa, quindi prevede una deflazione, perché il tasso sarà tra uno 0,1 e uno 0,7, però con, può raggiungere, ha detto lo stesso Trichet, livelli negativi a metà anno per poi risalire. Anche nel 2010 l'inflazione sarà sotto il 2%. Tra l'altro sull'Europa dell'Est, altro tema delicatissimo, ha alzato le mani Trichet, ha detto non possiamo cambiare le regole del gioco per salvare l'Europa dell'Est. Circa la situazione attuale nell'Europa dell'Est, posso dire che in questo momento è estremamente importante che non vengano cambiate le linee guida, le regole. Disponiamo di regole che tutti devono seguire ed è fondamentale che tutti restino ben ancorati ad esse, perché da questo dipende la stabilità della stessa Unione Europea nel suo complesso. Non credo sia positivo dire che, vista la situazione di debolezza in cui si trovano alcuni stati, allora vanno cambiate le regole. Sono al contrario veramente convinto che sia di fondamentale importanza restare ben ancorati alle attuali linee guida e regole. Va bene, allora con quest'altra bella giornata di borsa in cui l'S&P MIB arriva a perdere adesso il 6%, il MIB 5,5%, Francoforte il 4,4%, Parigi meno 3,5%, Londra meno 2,7%, una delle migliori, ma l'America adesso perde il 3% sul Dow Jones. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Da te immagino ampia iniezione di fiducia, perché con la Germania preoccupata per la Opel e la BCE preoccupata per l'economia, sarà dura. Allora, primo aspetto, cosa vuol dire Trichet quando dice siamo pronti anche a misure non convenzionali, l'uso dell'atomica? No, credo che Trichet si limiterà ad acquistare sul mercato obbligazioni societarie tendenzialmente, anche se non possiamo escludere a un certo punto anche obbligazioni sovrane, quindi debito pubblico, nel tentativo di far ripartire il mercato monetario, che è ancora abbastanza rigido, e tentare nel contempo di ridurre il divario tra le obbligazioni e aiutare i bilanci delle banche. Questo mi sembra siano i 3 obiettivi di un'operazione di questo tipo, che la banca sta discutendo ormai da alcuni mesi e che probabilmente scatterà tra la primavera e l'estate, direi, nel momento in cui i tassi saranno scesi al livello più basso che la BCE ha intenzione di accettare. Visto che oggi la Banca Centrale Inglese ha immesso, tra l'altro, e ha annunciato che immetterà 150 miliardi di sterline, cioè 170 miliardi di euro, per facilitare prestiti da parte delle banche, ed è la prima volta che questa strategia, che si chiama in gergo quantitative easing, viene usata in Gran Bretagna, e già il Giappone l'ha usata con un certo successo. Ogni tanto qualcuno la chiama stampare denaro, ma non è correttissima. In realtà la banca centrale acquista asset come titoli di Stato ed obbligazioni, poi fornisce questi soldi alle banche. È immaginabile che lo faccia anche la Banca Centrale Europea? Sì, no, la banca lo ha spiegato in questi mesi, lo ha spiegato anche oggi. Deve trovare esattamente il sistema giusto in cui farlo. Sta ancora valutando se vale la pena e sta valutando come farlo fondamentalmente. E lo farà nel momento in cui, come dicevo prima, il costo del denaro è arrivato al livello più basso consentito. Si tratta per la banca di, dicevo prima, acquistare sul mercato obbligazioni private o pubbliche, nel tentativo fondamentalmente di dare denaro alle banche o alle società, in modo tale da aiutarle ad avere liquidità. Questo è il punto fondamentale, e si utilizza questo metodo quando la banca centrale ha ridotto il costo del denaro ed è arrivata al punto in cui non lo può più ridurre perché non c'è più costo del denaro da tagliare fondamentalmente. Cioè non può andare a meno 2, a differenza purtroppo del PIL, il denaro è un costo, come lo dico chi scrive, può arrivare a zero, certo in America ci siamo già, può arrivare a zero ma poi è finita lì. Hai messo tutta l'acqua possibile sotto il muslo del cavallo, se questo continua a non bere non hai altra acqua. Quindi in questa circostanza una banca centrale tenta di dare denaro acquistando obbligazioni sul mercato. Lo ha fatto la Banca del Giappone negli anni 90 quando si è trovata nella stessa situazione e credo che le autorità monetarie stanno cercando di fare la stessa cosa. Lo stanno cercando di fare in modo diverso dai giapponesi. I giapponesi lo fecero ma nella seconda fase della loro crisi e lo fecero in ritardo. Il tentativo degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e tra poco anche della Banca Centrale Europea è di farlo il più velocemente possibile. Allora, terza domanda, visto che tu ricordavi appunto che a questo punto non ha più armi, non ha più munizioni, probabilmente arriveremo ancora a un altro taglio a metà anno, ma insomma ormai siamo a zero, e ci saranno altre iniziative come quella della Banca d'Inghilterra appunto per immettere sterline e facilitare i prestiti. Trichet ha anche detto andremo a metà anno in deflazione, ho capito bene? Ha detto che a metà anno i tassi di inflazione potrebbero essere negativi, ma ha anche detto che è una cosa molto temporanea e l'inflazione dovrebbe risalire e quindi tornare sopra lo zero nella seconda parte dell'anno. La previsione della banca per il 2009 è quella di avere un'inflazione fra lo 0,1 e lo 0,7, quindi in territorio positivo su base media annua. Certo, la banca sa perfettamente che il grande rischio di una situazione di questo tipo, scoppio di una bolla immobiliare, di fortissimo rallentamento dell'economia e di una frenata molto molto forte dei consumi, è che a un certo punto le imprese e i negozianti decidono di ridurre i prezzi pur di vendere. La banca è perfettamente consapevole di questo rischio. Il rischio deflazione è un rischio drammatico per l'economia, perché se già adesso si consuma poco, in un momento in cui vi è deflazione, vi è tendenzialmente il desiderio da parte delle famiglie e delle imprese di non acquistare, pensando che comunque nel futuro a breve i prezzi sarebbero ancora. Sarebbe come andare a comprarsi un abito il giorno prima dell'inizio dei saldi, non lo fa nessuno, e la deflazione ha questo bruttissimo vizio che spinge le persone a ritardare gli acquisti, perché se i prezzi fanno meno 1, meno 2, aspetti un mese e li paghi un po' di meno. Esatto. Solo che in questo modo si entra in una spirale abbastanza pericolosa per l'economia complessiva, tra l'altro in un periodo in cui già i consumi sono in calo. Ultima domanda che ho per te, Beda, ti chiedo estrema sintesi: la situazione dell'Europa dell'Est, quella è una situazione esplosiva, rischia di essere quello il prossimo fronte aperto? Perché la BCE ha detto non possiamo cambiare le regole del gioco per salvare l'Est Europa, ma non è che questo ci lasci molto tranquilli, ecco. No, l'Est Europa ha tre difficoltà. Ha delle banche, c'è un problema bancario naturalmente, perché le banche occidentali sono molto esposte in quella regione, c'è un problema di forte rallentamento dell'economia e c'è un problema valutario. È il grande problema del futuro, forse più grave di quanto non lo sia il problema irlandese o greco nella zona euro. Oggi Trichet ha avuto una risposta così, di maniera per certi versi, ha cercato di spiegare che non si può far entrare questi paesi nella zona euro tambur battente pur di tentare di risolvere il loro problema. Certo però non ha dato altre soluzioni. Sì, perché i paesi dell'Europa dell'Est chiedono appunto questo, chiedono di entrare nella cintura di sicurezza che rappresenta l'euro. Io vorrei un po' di pentimento da parte di alcuni politici anche di casa nostra che qualche anno fa sparavano alzo zero contro l'euro e sappiamo chi erano. Adesso meno male che c'è l'euro, altrimenti saremmo tutti quanti a gambe all'aria con la vecchia lira. È vero che l'euro ci è costato tanto, ma difende i nostri risparmi. Chiudo la parentesi, adesso un animale che tanto state invocando, è un animale esausto, afono, depresso, per chiudere questa prima parte del programma. È il nostro gufo, caro Beda, perché ci accompagna quando le giornate sono negative, quindi praticamente ormai è quasi una sigla del programma. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Beda Romano, le informazioni in metro, la pubblicità, poi parliamo di cosa cambia per i mutui, della situazione General Motors, delle borse, la borsa ha chiuso meno 5,81, l'S&P MIB meno 5,40, il MIBTEL meno 4,80, Francoforte meno 3,80, Parigi meno 2,90, Londra, l'America perde il 3,20%, capirai, e lo Standard & Poor's 500 il 3,6%, nuovi minimi da più di 10 anni per tutte le borse. Allora, 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso l'altro fronte, oltre a quello delle borse, ci arriviamo, tanto cosa volete dire? Meno 5,85% l'S&P MIB oggi. Arriviamo anche alle borse. Prima però vorrei approfondire, ogni tanto qualche elemento positivo stiamo cercando di trovarlo. L'inflazione ai minimi o la deflazione, è chiaro che, l'abbiamo detto più volte, permetterà ai lavoratori dipendenti di recuperare un po' di potere d'acquisto. È innegabile questo, che se i prezzi si fermano o scendono un po', chi ha il salario fisso recupera, diventa in maniera per converso più ricco, così come invece si è impoverito nel passaggio lira-euro. L'altra notizia riguarda per alcuni versi anche il fatto che i tassi così bassi permettono di avere prestiti se le banche li seguono, e qui stiamo ricevendo messaggi anche oggi di imprenditori solidi, solvibili, che da banche italiane, parlo delle prime quattro, si sono visti chiedere l'8% di interessi, i tassi sono all'1,5%, poi arriveremo al mondo bancario, qualcosa qui non torna. Il tema dei mutui però è un tema importante, perché oggi la buona notizia, io non posso tirare fuori il gallo oggi perché veramente sarebbe un'offesa alla serietà del programma vista la giornata, però la buona notizia è che secondo le stime di Nomisma il taglio di oggi della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse si tradurrà in un risparmio medio per le famiglie italiane di 456 euro l'anno. E allora Luca Dondi, analista senior di Nomisma Real Estate, la parte che si occupa proprio del mercato immobiliare, buonasera. Buonasera a voi. Da dove arrivano questi 450 euro? Ci faccia respirare un po', visto che poi dobbiamo parlare delle previsioni del ministro Tremonti, che ha detto che il 2009 sarà peggio del 2008, della General Motors che sta per andare a gambe all'aria, e poi della borsa. Quindi abbiamo un percorso in salita. Prego. È un'ipotesi fatta prendo in considerazione un mutuo tipo di 125.000 euro con una durata 20-25ennale. Si tratta di un risparmio che non è lecito aspettarsi da qui in avanti, perché l'andamento del tasso Euribor già interiorizzava quella che è stata la riduzione di mezzo punto, quindi è, diciamo, una riduzione delle rate riconducibile a questo provvedimento, ma che non scatterà da qui in avanti. In seconda istanza bisogna attendere che le diverse tipologie contrattuali consentano effettivamente di monetizzare questo risparmio. La nostra stima è che mediamente il risparmio per una famiglia sia nell'ordine dei 400-450 euro l'anno, con un risparmio complessivo per il sistema legato a questo taglio di mezzo punto di 456 milioni di euro. E se allarghiamo l'orizzonte ad ottobre 2008, quando i tassi erano al 4,25, i tassi di riferimento, non l'Euribor che era ben più alto, il risparmio complessivo si aggira sui 2,1 miliardi di euro. Quindi sono elementi senz'altro positivi, che però non sono immediatamente percepibili sulla rata del singolo mutuatario, perché sappiamo bene che i tempi di adeguamento delle banche da questo punto di vista sono piuttosto lunghi. Sì, quando ci sono. Voi avete fatto un calcolo, quindi un mutuo da 125.000 euro con durata 20-25 anni, un risparmio tra i 400 e i 435 euro. Complessivamente, da quando è iniziata la discesa dei tassi, quanto hanno risparmiato le famiglie italiane? Sì, la, La nostra stima, considerando una componente di tassi variabili sul totale del 45% e un numero totale di mutui in essere nell'ordine del 4,2 milioni, il risparmio complessivo è di 2,1 miliardi di euro. Da ottobre ad oggi è una cifra notevole, ribadisco però bisogna aspettare che gli effetti benefici di questa riduzione dei tassi si facciano effettivamente percepibili nelle tasche dei consumatori. Grazie, grazie al dottor Luca Dondi, analista sino di Nomisma Real Estate. Molti di voi ci dicono, insomma, è una buona notizia se lo stipendio ancora ce l'hai, quello fisso, il fatto che l'inflazione cali, magari vada in deflazione. Molti dipendenti, soprattutto privati, potrebbero non averlo più. È chiaro, però insomma non è che si può sempre vedere la parte negativa. Il fatto che i prezzi, la corsa dei prezzi rallenti, è una buona notizia per chi ha un lavoro fisso. Ora, poi non stiamo nemmeno immaginando quel tipo di catastrofe. Sappiamo tutti che la cassa integrazione è aumentata e anche di tanto, ma insomma vedremo i dati. Grazie, dicevo, a Luca Dondi. Adesso la borsa, poi General Motors, poi le dichiarazioni di Ministro Tremonti, della Presidente Confindustria Marcegaglia, del Presidente dell'ABI e quindi le banche italiane, Faisola, proprio sui prestiti bancari alle imprese. Le banche dicono che non è vero che c'è stata alcuna stretta nei prestiti. Allora la borsa. -5,85, -5,4, questi due indici di Milano. Ora, io non so se sia corretto, come alcuni di voi chiedono, chiedere la sospensione delle contrattazioni in borsa. Mi sembrerebbe una misura da 11 settembre, ma magari avete ragione voi, anche perché Francoforte ha perso il 5, Parigi il 4, l'America sta prendendo il 3, Londra ha perso il 3, complessivamente stanno in pushback del 3,2. Cosa vogliamo commentare? Che Unicredit ha perso l'11,75%, è scesa 80 centesimi di euro? Che Intesa ha perso il 9,36, è scesa 1,56 euro? Che Mediolanum ha perso il 9,3, è scesa 2,2, Seat 9,10, Alleanza l'8,6, Banco Popolare l'8,3, ancora teorico, però Unipol -7,91, Mondadori -7,8, Eni -7,5, Pirelli -6,7, Generali -6,5, Lottomatica -6,2, Finmeccanica -5,8, Popolare di Milano -5,7, Tenaris -5,4, Fiat pure, Telecom -5,1, Mediobanca -5, come l'Espresso, come Bulgari. Ha guadagnato Snam l'1,6, Terna lo 0,7, Impregilo lo 0,4. Per cento. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. La commentiamo sta borsa o ci salutiamo? Ma proviamoci, anche se oggi sì, c'è ben poco da salvare. E soprattutto sui listini sono pesate una serie di brutte notizie, sia sul fronte macroeconomico che su quello degli utili societari. Le principali sono state i dati sul PIL dell'Eurozona, sia quello dell'ultimo trimestre del 2008 che ha visto un calo dell'1,5%, e sia la revisione delle stime per il 2009 deciso dalla BCE, che ha tagliato drasticamente le previsioni precedenti. Quanto alle singole società, invece, oggi dietro al crollo dei finanziari c'è il crollo di Aviva a Londra, il principale gruppo assicurativo britannico, dopo i conti per il 2008 è arrivato a perdere oltre il 30% e ha zavorato tutto il comparto. Tutto il comparto assicurativo europeo oggi in generale ha perso l'11%, e non dimentichiamoci General Motors, di cui comunque adesso parleremo. Certo. Una domanda però ce l'ho: ma perché Milano continua a perdere più delle altre borse europee, se noi siamo un paese in cui le banche sono meno intossicate, in cui c'è più risparmio, siamo un po' migliori, lo sentiamo dire da mesi, e continuiamo a perdere quasi un punto in più delle altre borse? Sì, soltanto che secondo gli operatori in questo momento il mercato guarda ben poco i fondamentali, e quando si vendono i finanziari si vendono tutti, e a questo punto Milano sconta il fatto che i titoli finanziari pesano moltissimo sull'indice rispetto a quanto pesano sul listino europeo. Io non vorrei che nel gioco a massacro dei mercati di questi mesi ci fosse anche una tendenza ad andare a sparare sulla Croce Rossa, a picchiare chi è più debole, perché è chiaro che l'Italia poi, con il debito che ha, pur avendo una sua minor titoli tossici, avendo anche un risparmio più alto nei cittadini, è stata spesso individuata come un anello un po' più debole della catena europea. Non vorrei ci fosse anche questo sotto, ma mi sbaglio. Vi Di nuovo in diretta con Focus Economia, o ciò che ne resta, non di Focus Economia, ma dell'economia. Allora, Paolo Paronetto, così per divertissement, che cosa vogliamo commentare? Ma tra i titoli bancari un tema... A Viva l'abbiamo detto che insomma, certo, conti in rosso in Gran Bretagna e male tutti gli assicurativi, meno 9%, le banche abbiamo dette, Snam Rete Gas più 1,6 potrebbe essere un elemento positivo. Quanto ha perso il Banco Popolare? Il Banco Popolare oggi ha perso alla fine l'8,34% ed è forse l'unico tema che a parte all'interno del crollo dei bancari. Ovviamente il tema si chiama Italease, dato che secondo molte indiscrezioni di stampa si sta avvicinando il momento in cui si potrebbe decidere il futuro della società, e probabilmente con un delisting e con un consolidamento all'interno del gruppo Banco Popolare. Notizia che è positiva per Italease, che infatti oggi è stato uno dei pochi titoli in recupero, è arrivato a guadagnare il 30% sul finale. Ha limitato molti guadagni, ma comunque chiuso in positivo con un più 3%, ma ovviamente poi non si sanno ovviamente ancora i dettagli di questo progetto, ma il Banco Popolare potrebbe voler dire un ulteriore sborso di capitali per poter consolidare la partecipata. Allora, mentre alcuni di voi fanno notare che la mitica maga non ci ha beccato, adesso dovrei andare a sentire la puntata, lei diceva fine gennaio un rimbalzino e l'abbiamo avuto, però sicuramente non ci ha beccato adesso perché prevedeva un calo più avanti, e anche le maghe, anche le astrologhe, non è una maga, è un'astrologa, sbagliano, non solo Goldman Sachs o la Banca Centrale Europea o la Federal Reserve, anche l'astrologia è fallibile, costa un po' di meno. Io ringrazio Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore per aver parlato anche di borsa in una giornata in cui potevamo parlare anche del tempo, volendo, visto le spiegazioni che si leggono sul mercato. E passiamo adesso a un caso che sta penalizzando, tanto per cambiare, anche Fiat, ossia Fiat oggi ha perso il 5,3%, ma la vera preoccupazione europea è europea e chiaramente anche americana, si chiama in realtà General Motors. Eh sì, perché il colosso americano dell'auto oggi ha mandato un comunicato, quindi ha messo nero su bianco in una nota alla Consob americana, alla SEC, e ha detto: attenzione, potremmo avviare la procedura di bancarotta ricorrendo al chapter 11, al capitolo 11, quello che protegge poi dai creditori General Motors e quindi anche dagli obbligazionisti, perché non abbiamo forti dubbi, anzi abbiamo dubbi sostanziali sulla capacità di garantire la continuità aziendale. E allora, nel frattempo i paesi europei si vogliono riunire per capire che cosa succederà della Opel, già 7.600 esuberi annunciati, 3 miliardi di euro già richiesti. Andrea Malan, allegria anche per te. Buongiorno a tutti. Allegria anche per te. Beh, insomma. Allora, a che punto, quando lo dichiarerà questo Chapter 11? Sta mettendo le cose in realtà sono veramente in alto mare. La dichiarazione di oggi, che è contenuta, ricordiamolo, nel deposito del bilancio annuale obbligatorio presso la SEC, è in qualche modo un avviso di prudenza espresso tra l'altro dai revisori dei conti di GM, che dicono: attenzione, questi numeri sono calcolati nell'ipotesi che l'azienda continui a funzionare, ma noi non ne siamo sicuri. Che GM possa portare il libro in tribunale in realtà lo sanno tutti, a partire dai manager, da un po' di tempo. L'unico dubbio è se l'amministrazione Obama darà i finanziamenti necessari o no. Senza questi fondi GM avrebbe già portato i libri in tribunale da parecchio tempo. Quindi è anche, diciamo, da parte di General Motors un modo un po' per forzare la mano all'amministrazione e ricordare al governo: attenzione, guardate che senza questi fondi noi falliamo, e se falliamo o comunque se siamo costretti a riorganizzarci in amministrazione controllata o come si voglia chiamarla, potrebbero esserci delle onde d'urto colossali su tutta l'economia americana. Vabbè, mi sembra però, Andrea, che Bruxelles ci creda molto a questa ipotesi, se vuole una riunione straordinaria dei paesi in cui sono presenti gli stabilimenti di Opel. Pronto? Abbiamo problemi di collegamento con Andrea Malan, adesso lo ripristiniamo. Intanto rispondo, mentre recuperiamo Andrea Malan, alcuni sms che sono arrivati. L'astrologa ve la faremo risentire, non vi preoccupate. Alcuni ascoltatori invece, per fortuna, segnalano anche di mutui non dico i nomi perché farei pubblicità, ma di mutui di grosse case che stanno calando addirittura 300 euro in meno al mese, e questa è una buona notizia, visto che ne parlavamo prima. Quando chi eroga il mutuo si comporta correttamente, questo poi è un vantaggio per il risparmiatore. Ecco di nuovo Andrea Malan. Andrea, dicevo, i paesi europei sembra che invece ci credano molto, visto che vogliono un vertice straordinario per chi ha gli stabilimenti open in casa. Sì, diciamo che soprattutto in questo caso il problema a livello europeo sarà di coordinare gli eventuali aiuti. Ricordiamo che GM ha circa 50.000 dipendenti in Europa, di cui 25.000 con Opel in Germania. Ha chiesto già dei fondi al governo tedesco, ma anche al governo inglese, a quello svedese, eccetera. Gli svedesi hanno già detto di no, in pratica. I tedeschi si sono detti disponibili, anche se in realtà oggi ci sono delle dichiarazioni abbastanza dure da parte del ministro delle finanze, che dice non abbiamo ancora visto un piano accettabile per poter dare dei soldi. Qui i problemi sono due: uno, di essere sicuri che gli eventuali aiuti rimangano in Europa e non finiscano alla casa madre negli Stati Uniti; due, quello di coordinare proprio gli aiuti a livello europeo, perché è chiaro che ciascuno Stato darebbe dei fondi eventualmente solo per salvare i propri posti di lavoro, come è, diciamo, d'uso in queste circostanze, in questa congiuntura molto difficile in Europa, e quindi in qualche modo deve essere trovato un coordinamento, cioè, in base... Non vogliono dare i soldi col timore che poi faccia cassa General Motors in America, questo è, certo, questo è il rischio principale. Poi adesso io vorrei lanciare un appello, abbiamo qualche secondo... perché questo programma ha anche un fine sociale e umanitario delle volte. C'è una persona che sta attraversando una grossa difficoltà nella sua condizione personale. Si chiama Richard Wagoner, è una persona che si è visto ridurre lo stipendio a un terzo rispetto all'anno precedente, nel senso che il numero uno di General Motors ha guadagnato nel 2007 14 milioni di dollari. Quest'anno il manager dovrà accontentarsi, e noi siamo tutti preoccupati, di 5 milioni e 400 mila dollari come stipendio per il 2008, ossia l'anno in cui, per inciso, ma è un dettaglio, chi se ne frega, General Motors ha perso 31 miliardi di dollari. Ora io lancio pubblicamente un appello: aiutate Richard Wagoner ad arrivare al panettone, perché con 5 milioni invece che 14 è dura. Andrea Malan, se anche tu vorrai contribuire, poi daremo, diciamo che il numero del conto corrente per effettuare la donazione. Posso darvi uno scoop? Avendo letto il bilancio, in realtà il bilancio dice che per il 2009 Richard Wagoner incasserà un dollaro di stipendio, quindi l'appello che ha appena lanciato probabilmente... Quindi su due anni però guadagnerà 5 milioni e 4 più un dollaro diviso 2, fa sempre 2 milioni e mezzo, e questo ci preoccupa ancora di più. Con questo peso sulla coscienza, saluto Andrea Malan. e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo una borsa che anche oggi ha avuto comportamenti pieni di logica e di senso, meno 5,85%, meno 5,4 Mibtel, meno 5 Francoforte, meno 3,40 l'America in questo momento, avanti così. Standard & Poor's a 685 punti, mai così dal 1997. Parliamo dell'economia nostra. Perché? Perché oggi c'è stato il cosiddetto Liquidity Day, ossia l'incontro tra industriali, mondo delle banche e anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, per capire come sta andando il rapporto banche-impresa. Molti ci scrivono dicendo, lamentando tassi all'8%. Comunque, il ministro Tremonti in primo luogo ha chiarito come sarà il 2009. Ascoltiamolo senza nessun commento. Oggi ho scritto il 2009 sarà non esattamente come il 2008, ma insomma lo sanno tutti, lo vedono tutti, no? Noi non facciamo previsioni in questo momento, siamo realisti, c'è scritto siamo in terra incognita. Questa formula la usano in America, la usano in altri paesi d'Europa, la usiamo noi, è la cosa più saggia. Sappiamo che c'è una crisi e sappiamo che dobbiamo gestire una crisi, stiamo dentro una crisi. Uscire da questo schema molto semplice espone a rischi ancora maggiori. Ecco, quindi cosa si può dire? Sappiamo bene che siamo in crisi, ma proprio perché lo sappiamo ci comportiamo come ci stiamo comportando. Quindi dice il ministro Tremonti che, devo dire, abbiamo spesso elogiato anche per come tiene botta sui conti pubblici, sulla necessità di mantenere un debito credibile per l'Italia e quindi un rating credibile, e anche sempre è stato quello che per primo ha messo in guardia rispetto ai rischi di una crescita tutta a debito, di una finanziarizzazione, di un mercatismo, come l'ha chiamato, dell'economia. Però, per onestà intellettuale e per la professione che facciamo, dobbiamo anche ricordare, avendo molte volte elogiato Mr. Tremonti, che all'interno del governo c'è chi fino a qualche settimana fa della crisi parlava solo per dire che è colpa dei giornalisti o dei centri studi. Allora adesso, senza nessun commento, però io vi leggo le agenzie, poi ognuno può pensare quello che vuole, degli ultimi 4-5 mesi del governo, a partire dal Presidente del Consiglio, sul commento su come sarebbe stata questa crisi, visto che oggi il Ministro Tremonti ha detto: il 2009 sarà ancora più difficile del 2008, siamo in mezzo a una crisi. Allora, a agosto del 2008, quindi l'anno scorso, il Presidente del Consiglio Berlusconi: non sarà un autunno caldo, serve ottimismo. Il 30 settembre 2008, a crisi bancaria già scoppiata, sempre il Presidente del Consiglio Berlusconi: non sono pessimista sull'economia, il motore è solo ingolfato. 10 ottobre del 2008, sui mutui, il Presidente del Consiglio: non vedo motivi di preoccupazione. E due settimane dopo, per la precisione, il 29 di ottobre, le agenzie battono la dichiarazione, anche la stampa favorisce il pessimismo, la TV pubblica è ansiogena, non diffonda il pessimismo. Il 18 novembre, sempre Presidente del Consiglio Berlusconi: è essenziale che i cittadini rimangano sereni. E di nuovo ai media: basta pessimismo, dateci una mano. Il 25 novembre, con ottimismo comune è possibile uscire da questa crisi. E poi il 20 di gennaio, quando si è capito che, lo diceva la Banca d'Italia, il PIL quest'anno farà meno 2, in realtà siamo già a un meno 2,6%, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: non è così grave, si torna indietro di 2 anni, serve una riflessione. E poi finalmente, aggiungo io, il 13 febbraio, la prima missione l'abbiamo anche fatta ascoltare, di Berlusconi, che dice: siamo preoccupati. Però poi c'è stato anche il ministro Scajola, che il 18 febbraio ha detto: basta con i corvi della Confindustria troppo pessimisti sulla crescita economica. E allora elogiamo Tremonti, sì, lo dico a chi scrive, perché oggi ha detto che la crisi nel 2009 sarà ancora più difficile del 2008. Per favore, nessun commento politico, sono dichiarazioni, uno può pensare che avesse e abbia ragione in questa analisi del Presidente del Consiglio, può pensare che avesse e abbia torto. Detto questo, sentiamo le altre dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ha annunciato che a breve arriveranno anche dei soldi per gli ammortizzatori sociali. Indicativo del fatto che nel bilancio dello Stato, negli strumenti pubblici, ci sono delle risorse che magari non hai considerato, ho detto: per esempio, c'è un altro potenziale gruzzoletto che è disponibile, secondo me, per gli ammortizzatori sociali. Ma ho anche detto, non ve lo dico oggi per non inondare, per non inflazionare la comunicazione, una cosa alla volta, la settimana prossima vi diremo quale potrebbe essere un altro gruzzoletto. Non risolve tutto, però in parallelo agli 8 miliardi che stiamo definendo per gli ammortizzatori c'è un'altra robetta, e poi ce ne saranno altre ancora. E poi sempre il ministro Tremonti ha detto che queste nuove risorse potrebbero arrivare, potrebbero essere anche indirizzate ai Coco Pro, quindi ai lavoro interinale, ai collaboratori a progetto. Tra l'altro ha sottolineato Tremonti che ci sono circa 100 miliardi di euro bloccati sul territorio da un eccesso di burocrazia, e che alcuni investimenti in infrastrutture sono bloccati dalla follia mafiosa di alcune burocrazie. Poi su rischi più alti c'è un libro di Tremonti che abbiamo portato anche in trasmissione con il ministro, si chiamava Rischi Fatali. E oggi Tremonti ha detto: il rischio dei rischi è la stretta creditizia, ossia se le banche chiudono ulteriormente, aggiungo io, i rubinetti, e a quel punto tutto si avvita, ha continuato Tremonti, si stritolano le imprese, il lavoro, e di ritorno le banche stesse è una delle seconde, vado a memoria, crisi del capitalismo illustrate da Marx a suo tempo, quando si va verso l'avvitamento. E poi il ministro Tremonti ha detto chiaramente che le banche italiane, cito testualmente così non vengo accusato di avercela con le banche, le condizioni di offerta del credito sembrano irrigidirsi in Italia più che nel resto di Europa, dell'Europa. Hanno iniziato a peggiorare a partire dal settembre del 2007 con un ulteriore vistoso peggioramento nella seconda metà del 2008. E poi ha aggiunto Tremonti, gli osservatori sul credito verranno costituiti presso le prefetture e non si occuperanno solo dell'attività creditizia delle banche patrimonializzate, cioè quelle dove interviene il governo, i Tremonti Bond, ma anche del credito in generale. Di nuovo in diretta, allora se il ministro Monti dice sono usciti troppo tardi i bond, chiedete perché a Bruxelles. La presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono del nostro Vincenzo Meglietta ha detto se dovesse servire si possono anche aumentare gli importi di queste obbligazioni. Per il momento si parla di 10-12 miliardi, se poi le richieste delle banche saranno superiori mi auguro che le cifre poi che verranno messe a disposizione saranno anche maggiori. Presidente, la vostra richiesta è di sbloccare, di rifinanziare il fondo di garanzia? Sicuramente serve un rifinanziamento consistente al fondo di garanzia, che oggi non è sufficiente, e serve una soluzione vera e concreta e veloce al pagamento dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Queste sono le due richieste principali che noi abbiamo fatto. Abbiamo anche chiesto che la SACE aumenti la sua dotazione, la sua attività nel garantire i crediti commerciali esteri del sistema imprenditoriale italiano. Lei è pessimista, tra virgolette, come il ministro Tremonti, cioè il 2009 sarà peggio del 2008? Purtroppo è ormai nei dati che il 2009 sarà peggio del 2008, il tema vero però è che cosa fare e come agire velocemente per cercare di far sì che questa crisi duri il meno possibile, perché è evidente che se dovesse durare troppo creerebbe un grave danno al sistema imprenditoriale italiano e quindi anche ai lavoratori e all'occupazione. Così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e nega che vi sia una stretta sui crediti alle imprese il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faisola, sempre al microfono del nostro Vincenzo Meglietta, ha anche aggiunto le banche italiane non sono autrici ma vittime della crisi. In Italia in questo momento di rischi discendo dalla crisi ce ne sono moltissimi. È fuori di dubbio che anche un'eventuale non attuale restrizione creditizia accentuata, che non fosse fondata ovviamente su criteri di selezione del credito assolutamente normali, aggraverebbe ulteriormente la situazione delle imprese. Ma non è che la stretta creditizia di per sé stessa sia finalizzata, o potrebbe essere finalizzata, a creare delle situazioni drammatiche. Purtroppo la crisi è una crisi di domande, una crisi di investimenti, è una crisi che investe il mondo e che noi abbiamo importato. Il nostro paese ha importato tutta una serie di effetti negativi che derivano da un altro mondo, che non è il nostro. Questa mi pare che sia una considerazione molto molto importante e che ci dovrebbe da un certo punto di vista inorgoglire, perché siamo stati meno cattivi degli altri, quantomeno in generale, non solo le banche. Dall'altro ci fa anche un pochettino indispettire, perché subiamo le conseguenze di eventi ai quali noi abbiamo dato un contributo pressoché nullo. Vabbè, alcuni imprenditori che ci scrivono la pensano in maniera diversa, ma adesso cambiamo tema, abbiamo ancora 6-7 minuti per parlare di quote latte. Già se ne è occupato il nostro Alessandro Milan la mattina, ma oggi è passato il decreto al Senato e adesso va alla Camera, decreto molto discusso. In collegamento con noi il Ministro dell'Agricoltura, Luca Zaia. Buonasera Ministro. Buonasera Dottor Barisoni. Allora, in 2-3 minuti, mi dispiace per i tempi, ma oggi è una brutta giornata sui mercati, tanto per cambiare. Mi dice perché è soddisfatto delle modifiche anche al decreto, visto che gli agricoltori, soprattutto la Confagricoltura, diceva questo decreto va ad avvantaggiare chi non si è messo in regola, adesso sintetizzo in maniera molto brutale, e invece penalizza chi ha osservato le quote. Ma veda, noi possiamo dire proprio grazie al voto di oggi che questo decreto innanzitutto non è una sanatoria, perché ci permette di andare a incassare un debito di 8.404 aziende, che è un debito di 1.671 milioni, rateizzandolo nei confronti dello Stato in maniera onerosa, cioè abbiamo degli interessi che superano il 6%. Dall'altro, ovviamente, dobbiamo dire anche che questo decreto non è un decreto per pochi amici, visto e considerato che sulle 40.000 stalle in Italia, 17.200 stalle avranno benefici da questo decreto. Quindi è un decreto che va nella direzione della non sanatoria, del non aumento di produzione e nella prospettiva di produrre all'interno dell'alveo della legalità e quindi avere anche più potere contrattuale di conseguenza a livello comunitario. Mi scusi se ho ben capito, il blocco delle esecuzioni vuol dire che le aziende che devono pagare le multe cosa potranno fare? Perché blocco delle esecuzioni non vuol dire che non devono più pagare, questo lo dico anche a chi scrive. No, lei dice bene, dottore, assolutamente no. Le aziende debitrici nei confronti dello Stato avranno la possibilità di avere questo periodo finestra di blocco totale delle esecuzioni a loro carico, quindi dell'inevitabile messa all'asta delle aziende, per poter rateizzare nuovamente il loro debito. Questa è una volontà che portiamo avanti, anche perché il Ministro non è qui per chiudere aziende agricole, ma per tenerle in vita. Soprattutto, come lei ricordava prima, riferendosi ai mercati finanziari, in un momento di crisi, di difficoltà come questa. No, ma sono cali leggeri. 5,85% oggi l'S&P MIB, meno 11 Unicredit. Ma vabbè, Ministro, quindi le aziende pagheranno le multe, ma diciamo rateizzando, ho capito bene, con tassi tra il 6 e 6,5%? Assolutamente sì, dice bene, quindi 8.404 aziende nel momento in cui questo decreto sarà definitivamente convertito in legge avranno la possibilità di rateizzare la loro multa che, ripeto, è di 1.671.000.000, ovviamente con delle rateizzazioni concordate in un gentleman agreement con l'Europa e quindi la possibilità di avere delle rateizzazioni anche per scaglioni di debito. Grazie al Ministro dell'Agricoltura Luca Zaia, buona serata anche a lei. E allora parliamo adesso sull'altro fronte, cioè chi invece aveva molte perplessità, per usare un eufemismo, abbiamo visto i trattori verso Arcore, Egemonio, la Confagricoltura, soprattutto quella bresciana, ma non solo. Presidente Federico Vecchioni, Presidente di Confagricoltura, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ha sentito, spero, la parte almeno finale, la soddisfazione, solo la finale. La soddisfazione del Ministro Zaia. Per il decreto che è passato, il blocco delle esecuzioni vuol dire rateizzazione, il fatto che finalmente riusciranno a riscuotere i soldi, voi come posizione, al di là dell'emendamento che poi è passato, come rimanete? Ma noi siamo oggi certamente più soddisfatti di ieri, nel senso che abbiamo avuto la certezza che il decreto andrà in discussione anche alla Camera. Il decreto ha avuto un emendamento importante al Senato, che è quello che riguarda appunto la rateizzazione subordinata al ritiro del contenzioso, che crea, diciamo, un'impostazione da noi assolutamente auspicata, tenuto conto che il ritiro dei contenziosi noi lo riteniamo importante soprattutto al momento dell'assegnazione della quota, e quindi ci auguriamo che questo emendamento venga recepito alla Camera. È un emendamento diverso, ma sarà comunque un emendamento che noi riproporremo attraverso evidentemente l'Aula. E lo stesso dicasi per il fondo, che è aumentato già al Senato come noi avevamo auspicato, ma che auspichiamo venga ulteriormente aumentato alla Camera, fondo che deve abbattere, deve consentire di ristrutturare il debito verso coloro i quali hanno investito in quote in questi anni. Ecco, perché ricordiamo che il tema anche delicato non è solo chi ha sforato e rischiava, secondo la Confagricoltura, ma non solo di essere avvantaggiato, ma anche chi ha pagato le quote, per cui, insomma, ha già pagato di suo. Sì, certo, ci sono imprese che hanno investito per oltre 1.300.000.000 per comprare le quote, no? Per comprare. Molte di queste, tra le altre cose, sono società di capitali, quindi hanno anche un valore patrimoniale della quota. Questo è un altro elemento, diciamo, sul quale noi abbiamo diverse preoccupazioni, tenuto conto anche appunto del valore che la quota rischia di perdere nel corso di questi anni e dei prossimi. Ed è chiaro quindi che, tenuto conto anche delle condizioni economiche in cui versano molto delle aziende che si sono attenute alle regole della 119 del 2003, la ristrutturazione del debito consente di evitare una lacerazione tra chi oggi sceglie di rientrare nel sistema e chi invece ha scelto volontariamente di rientrare in questo sistema parecchi anni fa. Allora, possiamo dire però una cosa positiva che sottolineava anche il Ministro Zaia prima: speriamo che si arrivi anche alla Camera a mettere assieme tutte le esigenze. Però se si chiude questa vicenda delle quote latte, visto che stiamo chiudendo anche il programma in questo momento, alla fine è un bene, perché non se ne può più andare. È 20 anni che sentiamo parlare di quote latte. Presidente. Assolutamente sì, noi questo l'abbiamo sempre sostenuto, abbiamo dato atto al Ministro di aver affrontato con grande determinazione questo capitolo e quindi saremmo assolutamente ben lieti di poter chiudere questo capitolo, anche perché l'agricoltura italiana ha tante emergenze e ha bisogno di una visione strategica che evidentemente la tattica, diciamo, di queste emergenze ha in un certo qual modo non consentito di poter affrontare. Quindi prima chiudiamo questo capitolo, prima ci si potrà tutti occupare d'altro. Va bene, grazie anche al Presidente della Confagricoltura Vecchioni, Federico Vecchioni, quindi passi in avanti, visto che prima la posizione era netta, lo dico a chi scrive, adesso c'è già un'apertura, c'è ancora il passaggio alla Camera e poi vediamo veramente di chiudere la vicenda delle quote latte, che non se ne può più, lo dico con il massimo rispetto sul tema. Chiudiamo intanto il programma per oggi. Meno 5,8 l'S&P MIB, l'America perde il 3%, l'Standard & Poor's il 3,40, 688 punti, si torna al 1997. C'è chi dice, beh, magari nel 1997 in borsa non si stava così male, l'abbiamo già fatto il gioco, ognuno pensi a quello che faceva in quell'anno. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.